Giuseppe e Maria, la nostra storia d'amore. Autore Andrea Mardegandel, Opus Dei Milano, Acquerelli di Anna Maria Trevisan, Edizioni Paoline. Siamo arrivati alla pagina 121 e al capitolo 13. A Nazareth avevamo casa. A te la parola. Bene, allora entriamo dopo aver narrato la fuga in Egitto e poi anche il loro ritorno, no, dall'Egitto, in cui decidono insieme dove andare, no? E alla fine anche pensando e ricordando passi della scrittura, invocando lo Spirito Santo, si orientano verso Nazareth e poi in sogno anche vengono assicurati dall'angelo che va bene così. E allora questo capitolo si intitola Nazareth avevamo casa, e comincia Giuseppe il suo ricordo, questo dialogo d'amore con Maria, e l'ho intitolato Come vaso d'argilla. A Nazareth avevamo casa, non si ripartiva da zero. La gente si sorprese del nostro apparire e si dedicò alle chiacchiere di sempre. Ricordiamo che a Nazareth loro sono distanti da Nazareth da alcuni anni, da quando andarono a Betlemme, poi in Egitto e così, e tornano. Come lavoravo lo sapevano, ma erano passati alcuni anni e ricominciare mi preoccupava. Non ero sicuro che ce l'avrei fatta a recuperare terreno, clienti, commissioni. Maria se ne accorse, mi vide con in mano un pezzo di legno semilavorato mentre dicevo il mio lavoro. Mi poggiò una mano sulla spalla, non temere, e in silenzio cominciò a sistemare una stanza perché servisse da bottega e per esporre i manufatti in modo ordinato e gradevole. Io penso che Giuseppe, che è sicuramente patrono del lavoro, no, per tutti noi, lo è anche in modo particolare per chi ha queste vicende di cambiare lavoro, di rimanere senza lavoro, di cercare un nuovo lavoro e così via. No? E d'altra parte è molto bello vedere come, cioè, come mi immagino che Maria lo abbia aiutato, questa presenza, che spesso è un ruolo importante, ecco, della moglie con il marito, no? Una presenza che sostiene, che incoraggia nelle difficoltà, anche viceversa, perché oggi la donna lavora e tanto spesso il marito la consiglia, la incoraggia e la sostiene. Anche il piccolo Gesù si ingegnava a dare una mano. Il rapporto con lui era affascinante, come lo era stato quando aveva pochi giorni e Maria mi aveva aiutato a perdere la paura di prenderlo in braccio e di giocare con lui. Ecco, la mamma che aiuta il padre a diventare padre, no? A prendere confidenza con questo bambino che è stato per 9 mesi nel seno della madre, e quindi la mamma ha con lui un rapporto particolarmente intenso e intimo, però è il ruolo della madre di aiutare il padre a prendere confidenza con lui. E Giuseppe dice: lo facevo ridere e lo cullavo nelle notti difficili. E io mi ricordo che mio padre, appunto, alcune notti ero bambino, non so, c'era qualche problema, qualche malattia, e mi cullava, mi faceva, mi camminava nel corridoio per aiutarmi a riaddormentarmi o a passare quel momento difficile. Qualche volta gli cambiavo i panni. Uno degli amici a cui ha fatto leggere questo, amici sacerdoti a cui ha fatto leggere questo manoscritto prima di pubblicarlo, mi ha detto: ma forse questo non è un po' anacronistico, ma l'ho voluto lasciare, no? Perché oggi lo fanno tanto i papà, di aiutare anche la mamma in questi lavori domestici, e mi piace pensare che l'abbia fatto anche Giuseppe, così ci aiuta a capire com'è l'umanità di questo Dio incarnato proprio come quella di ciascuno di noi, ogni bambino. Sarebbero i pannolini, no? Sì, i pannolini. Ci può aiutare ogni bambino con cui abbiamo a che fare, con i genitori hanno a che fare, gli zii, i fratelli, pensare che il Dio sia fatto così, no? Un bambino piccolo che ha bisogno di tutto. Io l'ho fatto per i miei 2 nipoti. Ecco, bravo. Che adesso hanno relativamente 39 e 33 anni. Fantastico. Ascoltai con emozione i suoi tentativi di esprimersi e le sue prime parole. Seguì i suoi primi passi incerti e gioiosi. E con il passare del tempo gli insegnavo le cose della vita, della natura, del lavoro. Mi domandava e ascoltava con grande attenzione. Gli insegnavo le prescrizioni della legge. Ecco, rileggendo queste parole penso, certo, sono parole semplici che si adattano a qualunque papà con il suo bambino, ma è proprio questo che ci aiuta a contemplare il Dio fatto uomo. E quindi il ruolo di papà che aveva Giuseppe con lui, ecco, per esempio, di introdurlo nel mondo, di spiegargli la vita, la natura. E anche le prescrizioni della legge, questo era proprio un compito che il popolo di Israele, il padre aveva nei confronti dei figli, no? Un compito stabilito, insegnare la legge. Quando ebbe l'età adatta, cominciai ad accompagnarlo tutti i sabati nella sinagoga per ascoltare insieme la parola di Dio. Mi colpiva vedere come ascoltava, come imparava e poi a volte come mi domandava mentre tornavamo a casa. Non capiva perché sua madre non potesse stare accanto a lui nella sinagoga, ma dovesse rimanere in un luogo a parte, riservato alle donne, e perché loro non potessero intervenire. Alla sua domanda sul motivo di questa consuetudine non sapevo che cosa rispondere, lo rimandavo a Maria. E quello che accade a volte, no? E accade a volte nelle famiglie, il papà rimanda alla mamma quando c'è una domanda un po' più difficile. Tornato a casa, Gesù discorreva con lei di quello che aveva ascoltato e ne parlavamo in famiglia. Era una cosa molto bella, insieme comprendevamo la parola di Dio. Questo penso che sia un'esperienza comune, perlomeno delle famiglie cristiane, quelle che vanno insieme a messa, che poi se l'omelia è, come speriamo che sia, è bella, incisiva, ben preparata, concreta, insomma, e che aiuta a penetrare nella comprensione della parola di Dio che abbiamo letto, poi dopo la famiglia, a pranzo insieme o a cena la domenica, e a volte ricorda qualcosa che è stato detto e insieme possono approfondire, no, la comprensione della parola di Dio di quella domenica. Ogni tanto, ripensando all'immenso mistero della sua origine, andavo in crisi. Per tutta la vita ero stato educato alla trascendenza di Dio e alla sua invisibilità, al suo essere totalmente uno. Alle volte improvvisamente mi attanagliava l'enorme distanza tra ciò che vedevo e ciò che mi era stato sempre insegnato. Era forse un attacco del nemico di Dio, si aggrappava al mio essere giusto, al mio rigore e si scatenava. E a volte appunto il nemico di Dio, il demonio fa questo, cioè prende, no, come abbiamo visto nelle tentazioni con Gesù, cioè prende anche la parola di Dio, la interpreta a modo suo e cerca di metterci in difficoltà, no? Oppure prende un lato del nostro carattere, io vedo Giuseppe giusto, che vuole fare tutte le cose bene secondo la legge, e allora quello qualche volta, immagino io, lo metteva in difficoltà, no? Quella casa mi ricordava talora i momenti nei quali avevo pensato di lasciare Maria perché non mi sentivo all'altezza e perché volevo proteggerla. Io vi immagino che loro vanno a Nazareth, nella stessa casa di Giuseppe, ecco, dove Giuseppe aveva passato quella notte difficile, ecco, dove poi gli apparve l'angelo in sogno. Mi dispiacevo di aver avuto quel ricordo, ma allo stesso tempo non riuscivo a scacciarlo. Lei, come sempre, se ne accorgeva, mi leggeva in volto, intuiva il cuore. Ero da solo seduto al tavolo quel giorno, lei mi si avvicinò e io allora le dissi: Maria, non posso avvicinare questo mistero. Rimase in silenzio per un po' guardandomi, poi mi sorrise e mi disse: voglio solo stare con te. Mi abbracciò e quel dolore si sciolse nella fusione dei cuori. Io penso che il Signore Dio dia alla donna, nella sua diversità l'uomo, questa, la donna che ama il suo marito e i suoi figli, a volte una forte capacità di intuire il problema attraverso il quale quell'uomo amato passa, no? E anche al di là delle cose dette, ecco, questa capacità di intuire il cuore. Maria ce l'aveva e ce l'ha in modo eminente, no? Anche per tutti noi suoi figli. Però anche le donne che accompagnano gli uomini nel loro cammino terreno, la sposa e la madre, a volte hanno questo dono. Ed è bello pensare, cioè io mi immagino che a volte non si tratta da parte loro, di queste donne, madre, sposa, di fare chissà che cosa, ma di stare vicino, no? Di essere a volte anche in silenzio, di essere presente, no? e di esprimere con tenerezza la vicinanza, e questo a volte è sufficiente, no, a sciogliere il dolore, a far passare quella difficoltà, a superare quell'eventuale momento di tentazione. Senza la presenza di Gesù, dice Giuseppe, non avrei saputo accarezzare Maria, le mie mani erano troppo ruvide per il fiore più bello tra i fiori, ero duro quando ho conosciuto lei. Dio mi ha donato Gesù perché potessi amare lei tramite lui e lui tramite lei. E qualcuno parla della Trinità della Terra, no? Con tutta la distanza che c'è con la Trinità del Cielo, però indubbiamente con questo passaggio d'amore tra tutti e tre, io mi immagino che sia stato proprio così. Lo ha donato a me prima che a voi, ecco, nel pensare ai sentimenti di Giuseppe ho pensato, lui è la primizia, diciamo, è il primo uomo a cui Maria dona Gesù, e poi è il primo di tutti noi, no? Di tutti noi a cui Maria porta Gesù, no? E Gesù mi insegnava la tenerezza proprio quando non ne ero capace. È stata una grazia continua per me, che ero ruvido come il legno che lavoravo. Quante volte ho pensato, come posso meritare una donna così bella, delicata come un giglio? Il Signore mi rispondeva che non ero io che meritavo, era Lui che mi sceglieva ogni volta che io non mi sentivo meritevole. Questa è una frase che può sembrare un po' complicata, però penso che sia così per ogni vocazione, no? Cioè che non è che ce la meritiamo, è appunto lo sposo che si merita la sposa o viceversa, o i figli che Dio dona, ma anche ecco, in altre vocazioni del celibatario, no, del sacerdozio o altre vocazioni laicali o religiose che, con cui ci doniamo a Dio del tutto, ma è Dio che chiama, no? Cioè al prima dei nostri meriti, non è questo, è la sovrabbondanza del suo amore, no? Quindi mi piace anche pensare che Giuseppe sentiva che il Signore lo sceglieva ogni volta, e ogni volta che non si sentiva meritevole arrivava poi la conferma di Dio che dice ti ho scelto io, no? Accoglievo allora l'amore di Gesù e di Maria che mi rendevano degno nel tempo, e beh, è l'amore di Dio che ci rende degni della sua chiamata. Sia Maria sia Gesù mi aiutavano nel lavoro. La sera Maria sistemava gli strumenti perché li trovassi pronti e ordinati il giorno seguente. Gesù voleva imparare e mi domandava ogni cosa. Mi procurava molta gioia dargli le risposte giuste che lo soddisfacevano. A volte mi soffermavo a guardarlo mentre lavorava e pensavo tra me e me. Allora non è inutile la mia presenza, impara da me a essere uomo. Ecco, so di alcuni papà che leggendo questo passo poi si commuovono perché riscoprono l'importanza del loro ruolo nei confronti dei figli. Bellissimo. Un giorno stavo portando una trave in un cantiere, sono i capitoli che narrano, sono due capitoli grossi che narrano la vita nascosta di Nazareth, in cui io mi sono un po' dilungato anche con fantasia, perché il Vangelo dice pochissimo, però a noi fa piacere immaginarci episodi della loro vita quotidiana. Un giorno stavo portando una trave in un cantiere, dobbiamo ricordarci che allora non c'erano tanti strumenti che adesso ci sono per rendere più agevole il lavoro manuale. Percorrevo una strada polverosa, faceva molto caldo. Gesù era voluto venire con me, sono inciampato, con il ginocchio per terra, sorreggendo ancora la trave sulla spalla, sentivo il ginocchio ferito. Era un momento difficile per me, di pianto, non solo per la ferita. Gesù, aveva circa 7 anni, mi venne incontro e con le mani mi prese il viso. Si commosse vedendomi così provato. Mi amò con lo sguardo. E mi aiutò con le sue manine, ma soprattutto con la sua presenza, ad appoggiare per terra la trave di legno pesantissima. E come se lo riconoscessi all'improvviso, mi venne da dire sottovoce, tu sei il Cristo. Sappiamo che Cristo è la traduzione di Messia, no? In greco. Mi guardò con grande intensità e mi disse, Abba. E bello, cioè, tu sei il Messia e tu sei il mio papà, mi dice Gesù. Un altro giorno, in uno dei miei momenti di accumulo di pensieri e difficoltà, stavo lavorando con il martello sull'incudine. Si sprigionavano scintille. Turbato e con un po' di pena nel cuore pensavo, questo battere è come la mia vita, perché Dio fai così su di me? Gesù aveva 12 anni allora, entrò da una stanza accanto, mi guardò, mi fece no con la testa senza dire nulla. Poi mi prese per mano e mi accompagnò sulla soglia dove Maria seduta stava lavorando un vaso d'argilla con arte e delicatezza. Come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, diceva Dio a Geremia. Maria era bellissima e stava in silenzio, serena, umile. Rendeva serena anche l'aria che c'era intorno. Ebbi una sensazione meravigliosa che mi inondò di tenerezza e mi restituì la pace nel cuore. Non erano colpi sull'incudine quelli che Dio mi dava, erano le mani dolcissime di Maria con le quali lui mi modellava e che mi portavano a perdere durezze e spigoli. È bello pensare, penso che aiuti tutti, pensare che nella nostra vita, in modo particolare la vita degli sposi, c'è una crescita, ecco, dobbiamo pensare sempre, non fermarsi alla difficoltà del presente, ma pensare che c'è un cammino e anche attraverso le difficoltà il Signore ci modella e ci fa crescere. Questo è molto importante, non perdere la speranza di migliorare lungo la vita con la grazia di Dio, no? Ecco, allora a questo punto Maria interviene con la sua testimonianza su quello stesso periodo, l'ho intitolato Gesù osservava tutte queste cose. Dice Maria, contemplare il rapporto di Giuseppe con Gesù era fonte per me di inesauribile gioia. Quando il bambino era piccolo, vedevo che Giuseppe giocava con lui, lo coccolava, lo faceva ridere di gioia. A volte improvvisamente si preoccupava, come farò a proteggere questo bambino, a essere all'altezza di Dio nell'essergli padre. Scoprì che il mio abbraccio di madre e di sposa gli restituiva la sicurezza. Un giorno camminavo per le strade di Nazareth con Gesù che aveva avuto 6 anni, teneva lui le briglie dell'asino caricato di ceste, arrivavamo al cantiere dove lavorava Giuseppe era curvo a segare un asse di legno su un masso, sudato, impolverato, lo chiamai, Giuseppe si fermò e si mise a guardarmi, come fosse la prima volta, lo accarezzai e con un fazzoletto gli asciugai il sudore e gli pulii il viso. Gli porsi il pranzo estraendolo da una cesta sul dorso dell'asino. Giuseppe mi ringraziò. Gesù giocava con l'asino. Non disturbava la nostra intimità, anzi la incoraggiava standosene in disparte e gioiva nel suo cuore. Quanto gioiscono i figli nel vedere i genitori che si vogliono bene, la loro origine, papà e mamma, che si vogliono bene, ecco, i figli sono felici e stanno benissimo, no? E a volte i genitori si preoccupano dei figli che se invece si preoccupano del loro amore danno ai figli una grandissima pace, una grandissima gioia. Un giorno da adulto in un dialogo di grande intimità mi avrebbe detto: io sono l'amore del padre, l'amore di Dio consegnato a una donna per mezzo di un angelo e consegnato a un uomo per mezzo di una donna, io sono l'amore di Dio consegnato all'uomo. A casa mi sedevo su una sedia di legno costruita da Giuseppe, pensavo che sia io sia Gesù avevamo bisogno di fare affidamento sulla presenza quotidiana e silenziosa di Giuseppe, sulla sua vita e sul suo lavoro. Sapevo che il peso dell'immensa grazia che Gesù portava al mondo poggiava sulle spalle di Giuseppe. Era faticoso per lui stare così vicino al mistero di Dio. Cercavo di aiutarlo in ogni modo. A volte tornava così stanco dal lavoro che davanti alla cena si assopiva, sudato, le mani ancora rosse e gonfie, sui capelli, sulla veste e sulla barba riccioli di legno volati lì durante i vari intagli e piallature. Quando succedeva, con un telo appena umido li toglievo tutti, poi con una boccetta d'olio gli ungevo le mani per lenirne il gonfiore e il rossore. Bello. Buongiorno. Ecco, è bello che la sposa si occupi non solo, ecco, di voler bene spiritualmente al marito, ma anche così, no? Curandone il corpo. Un giorno Gesù stava usando uno scalpello per intagliare il legno, gli scivolò e si ferì il palmo di una mano. Ebbe come una premonizione di quello che gli sarebbe accaduto, i chiodi conficcati nelle mani sul calvario. Si spaventò fino a quasi a perdere i sensi. Ero in una stanza vicina, corsi subito da lui. Ci guardammo come poi sarebbe avvenuto sotto la sua croce. Giuseppe osservava tutto, capiva la sofferenza di Gesù e la mia, ma si rendeva conto che non riusciva a cogliere tutto. Soffriva per quella distanza. Una volta mi chiese, insegnami a pregare. Inventammo una preghiera che dicevamo con Gesù in famiglia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, si compia la tua volontà, dona a noi e a tutti il pane quotidiano. E Giuseppe aggiungeva, perdona i nostri peccati e aiutaci a perdonare chi ci fa del male. Mi piace pensare che appunto la preghiera in famiglia, che tutti impariamo a pregare in famiglia, e poi dopo anche nella chiesa, ma prima in famiglia. E quindi ecco, mi sono inventato questa ipotesi che la preghiera del Padre Nostro avesse una piccola origine nella preghiera della famiglia di Nazareth. Nelle sere calde talvolta lo prendevo per mano, Giuseppe vieni con me, e lo portavo a sedere su una collinetta vicino alla nostra casa. La notte ci avvolgeva e mano nella mano guardavamo le stelle, ricordavamo Abramo che contemplava nelle stelle la sua numerosa discendenza nella quale c'era Gesù e vedeva misteriosamente il tempo che noi stavamo vivendo. Poi pregavamo in silenzio. Gesù, il ragazzino, osservava tutte queste cose. Bellissimo. Vorrei concludere con una cosa che mi è venuta in mente adesso. Spero che non ti scandalizzi troppo. In questo libro, malgrado il genere letterario diverso e la dimensione soprattutto, lo metterei molto vicino alla Valtorta. Non so se sei d'accordo. Sì, cioè, capisco, è il tipo di genere letterario che a me prescinde che la Valtorta di Sbio non ho avuto, diciamo, evidentemente nessun fenomeno di tipo rivelativo, ma però è vero, è in quel tipo di... Comunque è un libro ispirato, sicuramente, Don Andrea. Si vede che la Madonna e Giuseppe mi hanno aiutato quando hanno preso questa idea e anzi me l'hanno data loro. Ispirato da loro, ma anche moltissimo dal tuo fondatore. Senz'altro, è proprio così. Allora una bella benedizione per concludere e far tesoro di queste cose che ci hai detto. Sì, volentierissimo. Allora la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, con l'intercessione di Santa Maria, di San Giuseppe e di San José Maria, discenda su tutti voi e rimanga sempre. Amen. Grazie infinite, alla prossima. Alla prossima, facciamo grazie. L'altra metà di questo capitolo. Grazie infinite. Pronto, Don Emanuele?